Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Parliamo di un approdo questa mattina. Innanzitutto, buongiorno. È da 13 anni che in Parlamento si discute di una riforma. Di cosa sto parlando? La riforma in materia di cittadinanza. Qual è l'obiettivo finale? Modificare la legge attuale, che è la numero 91 del 5 febbraio del 1992. Questa legge, come sappiamo, prevede lo ius sanguinis. Allora, io vi risparmio cosa sia successo in tutti questi 13 anni, perché abbiamo cominciato poi nel 2003 con la Commissione Affari Costituzionali della Camera che esamina le prime proposte. Insomma, sembrava sempre tutto lì lì per succedere. Siamo arrivati al 2017. Ora l'approvazione è stata rimandata a data da destinarsi. Era stato detto dopo l'estate, adesso ci siamo, siamo dopo l'estate. Ma dopo l'approdo in Senato per il voto definitivo, questo intorno a fine giugno più o meno, il governo ha preso atto in qualche modo che l'opinione sul disegno di legge sulla cittadinanza era ancora troppo divisa nel pubblico e quindi ha preferito rimandare. A quando? Per ora non si sa, ma non è questo l'oggetto della nostra trasmissione. You say either, I say either, you say neither. And I say neither, either, either, neither, neither, unless... Cominciamo a anticipare il tema con una canzone. Questi sono gli accenti che creano una diversità, almeno apparente, in superficie, e poi forse c'è anche comunanza. Noi oggi parliamo innanzitutto della definizione. È stata definita la legge sullo ius soli, ma non è una definizione accurata e in genere molta confusione. Quindi si parla sempre di questa legge in termini molto affannosi, molto confusi. Noi ci siamo chiesti, prima di tutto, la legge, il disegno, la proposta, di cosa prevede e qual è la differenza con il resto d'Europa, secondo interrogativo. Quindi noi parliamo di ius soli, questo è il titolo generico, ma in realtà stiamo esaminando una proposta sullo ius culture. Questo è il centro della nostra trasmissione. C'è una cosa in più: quando si parla di cittadinanza, di cosa, a cosa si rinuncia? E per capirlo abbiamo con noi Xavier, che voglio salutare e ringraziare. Buongiorno, benvenuto Xavier Palma. Buongiorno. Xavier Palma è un ragazzo di 23 anni che ha creato già alle sue spalle l'organizzazione di un movimento, Italiani senza cittadinanza. Studia scienze della mediazione interculturale, vive a Como, ha fondato questa associazione perché si ritrova in questa condizione. Cioè, se ti chiedessi sei italiano, cosa mi rispondi, Xavier? Assolutamente sì, sono italianissimo. E hai un documento che lo possa provare? Purtroppo no, perché nella mia carta d'identità, ben dopo 14 anni che abito qui, c'è scritto salvadoregno. Cioè, tu sei partito dal Salvador con tua madre, non sei nato sul suolo italiano. Esatto, sono arrivato in Italia da piccolo all'età di 10 anni e ci ho vissuto ininterrottamente fino ad adesso. E sei ancora a rischio di irregolarità o ormai anche senza la cittadinanza non corri alcun rischio? In realtà tutti gli stranieri sono a rischio irregolarità e questa è una cosa che non sempre viene ricordata. Prima di tutto, io come studente universitario, nel caso mia madre dovesse perdere il lavoro, non posso rinnovare il permesso di soggiorno e dunque dopo metà vita vissuta qua in Italia rischio di essere mandato via. Che scuola hai fatto? Ho fatto ragioneria alle superiori, poi dopo ho deciso di cambiare totalmente e ho scelto di studiare lingua e cultura cinese. Questo perché ho sempre la fascinazione per il multiculturalismo e per l'incontro tra le persone. Quante lingue parli? Adesso non voglio sembrare che mi sto vantando, ma in realtà fluentemente ne parlo 4. Poi dopo a livello scolastico potremmo dire azzardiamoci ad arrivare a 6. Hai creato questa associazione Italiani senza cittadinanza perché? Prima di tutto perché insieme agli altri ragazzi volevamo riportare la discussione su questo provvedimento, visto che era già stato abbandonato dal Senato, ma soprattutto per la prima volta da quando si discute di legge di cittadinanza volevamo portare nel dibattito pubblico i diretti interessati, quindi far capire alle persone che quando si parla di cittadinanza si parla di noi, di ragazzi cresciuti in Italia e si parla delle nostre vite e dei nostri sogni. Eppure tanti temono che questo provvedimento possa far approdare milioni di persone, soprattutto donne che quasi così si sono espressi, partoriscano sulla spiaggia per poter avere la cittadinanza per il bambino e per la famiglia. Certo, un giorno cercavamo il mostro di Loch Ness, adesso cercheremo le fantomatiche partorienti. È molto importante fare delle precisazioni di natura giuridica. Professor Morozzo Della Rocca, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Proprio per stabilire i confini di questa legge e qual è il perimetro che delimita, perché viene definita ius soli, abbiamo detto questo, in realtà non stiamo parlando di uno ius soli puro, per cui questo timore delle partorienti definite accostate dal nostro ospite al mostro di Loch Ness non dovrebbe potersi realizzare, adesso al di là della suggestione dell'immagine. Ma io credo che parlare di ius soli con riferimento a questa legge sia un po' un atto di disinformazione, magari non voluta ma oggettiva. Intanto l'asse portante della legge rimane quella che sia cittadini per ius sanguinis, questa sarà la normalità della trasmissione della cittadinanza. Lo ius soli non viene introdotto. E direi che lo ius soli in Europa, anche nei paesi che lo prevedevano in modo più radicale, non esiste più. La soluzione... E quindi potremmo definirlo una sorta di ius culture? Direi è uno ius culture in perché? Due forme. Spieghiamo, perché il professor Morozzo Della Rocca è ordinario di diritto civile al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino, è membro della comunità di Sant'Egidio, svolge migliaia forse di attività, ma a noi interessa il fatto che da anni, quando ancora nessuno ne parlava, si occupava proprio di diritto della cittadinanza, dunque uno dei massimi esperti italiani. Professore, a chi non avesse chiari i termini e le distinzioni, quando diciamo ius culture cosa intendiamo? Beh, intanto vorrei dire, se una donna viene in Italia, scende dall'aereo e partorisce, il figlio rimane figlio della cittadinanza della madre e non acquisterà la cittadinanza italiana. La cittadinanza italiana in questo disegno di legge l'acquista chi nasce in Italia da una famiglia ormai soggiornante in modo permanente sul territorio nazionale e quindi con la prospettiva di crescere in Italia come Xavier che abbiamo appena sentito. La differenza con Xavier è che forse Xavier, non essendo nato in Italia, e con lui forse altri 500.000 minori stranieri che oggi sono in Italia, acquisterà la cittadinanza con un secondo canale d'ingresso che pure è previsto dalla legge, che è più propriamente lo ius culture, cioè bambini che vengono in Italia al di sotto del 12° anno d'età e che in Italia fanno la loro carriera scolastica. E dopo quindi la riforma introduce in qualche modo questo principio per cui si può tenere la cittadinanza anche se non si è nati qua, avendo frequentato uno o più cicli scolastici. Anche questo va precisato perché... E non si aggiunge proprio nessuno a chi numericamente è sul territorio italiano, semplicemente si riconosce un diritto a circa 200.000 minori o ragazzi molto giovani come Xavier che in questo momento vivono in una sorta di limbo. Abbiamo sentito addirittura se sua madre perde il posto di lavoro a lui toccherebbe una situazione di irregolarità totale. Questa legge ci permetterebbe in qualche modo di allinearci a paesi come la Francia, come la Germania, come la Gran Bretagna. Le rispondiamo tra pochissimo, prima linea alla regia. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finfarro, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo, da sabato 9 settembre alle 9, su Radio 24. Però pure la nuvola di granchio. Cos'è il certificato di vaccinazione? Entro quando portarlo a scuola? Cosa succede se mio figlio non è vaccinato? Domande e polemiche per il decreto della discordia alla prova d'autunno. Conto alla rovescia per l'inizio delle scuole, Radio 24 vi spiega tutto quel che c'è da sapere sui vaccini in classe. Da lunedì 4 settembre, per tutta la settimana, in viaggio in GR24 delle 7. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Si riva camnu. Io potrei fare i sottotitoli qua. Parlo il danese con una proprietà di linguaggio, ma non voglio esibirmi, non voglio toglierti la scena, perché uno dei nostri ospiti è Charlotte Silverstein, dunque la corrispondente in Italia per gli organi di stampa danesi. Ha un'esperienza particolare e ha un modo di leggere la realtà decisamente acuto. Innanzitutto, grazie a Charlotte Silverstein per il suo tempo, benvenuta. Buongiorno, grazie anche da parte mia. Lei scrive per Point of View International, oltre a diverse collaborazioni, una sorta di Huffington Post danese, e proprio per loro ha preparato un articolo che raccontava, in cambio noi ti abbiamo messo questa canzone, Charlotte, proprio grazie, per è ripagarti stato molto un bello. Po' con la stessa moneta, che raccontava questa proposta di legge italiana. Secondo il tuo punto di vista, un passo avanti? Sarà senz'altro un passo davanti, perché, come abbiamo sentito, Xavier, lui con questa legge jus culturale avrebbe la cittadinanza italiana. Si deve andare oltre. Ci sono anche io, mi viene da dire. Sono in Italia, ho la residenza da 18-19 anni, il permesso di soggiorno che dicono che dura eternamente, ma dura finché i politici non cambiano le regole. E secondo me, come Xavier e gli altri bambini che finiscono un ciclo scolastico, secondo me i cittadini stranieri che hanno la residenza, diciamo, 10, 12, 15 anni in Italia, dopo un certo periodo ci dovrebbe essere proprio offerta la cittadinanza, anche per chi esistano ancora cittadini, ad esempio i cinesi, che se chiedono e ottengono la cittadinanza italiana vengono tolto la loro originaria. Beh, sì. Non solo loro, la Corea del Sud e tanti altri, sì, paesi. E la Danimarca fino a due anni fa non accettava la doppia cittadinanza. Di conseguenza, se venisse data e non richiesta, tu ci fai notare questa differenza, non si metterebbe l'individuo nella situazione spesso tormentosa di dover rinunciare. Di dover scegliere. Quelli che sono costretti a rinunciare alla cittadinanza originaria. È come se li fai subire un'amputazione di un atto, di una parte del cuore, di una parte del cervello. Perché è una cosa fantastica sentirsi a casa in più posti. Ed è una situazione, tra l'altro, che riguarda sempre più esseri umani, perché ormai le emigrazioni, per i motivi più disparati, riguardano miliardi di persone sul pianeta, per cui sarebbe ora che anche i sistemi giuridici in qualche modo fossero al passo con i tempi. E sentirsi a casa, che differenza fa? La tua principale preoccupazione quale sarebbe? Poter votare, per esempio? E significa molto di poter votare a un Parlamento dopo 25 anni. In Danimarca ci tolgono il diritto di votare dopo due anni con la residenza all'estero. Però è la sicurezza, il sapere che ho il diritto di stare in Italia. Le leggi che dicano che il mio permesso di soggiorno è illimitato ora, questa legge può essere cambiata. Domani possono. Brexit fa scuola, tu dici? Sì, Brexit fa scuola, e io non posso dire a nessuno, anche se vivo qui da decenni, faccio la cittadina qui, non posso dire ho diritto di stare qui. Crea un'insicurezza esistenziale, se possiamo dire. Xavier Palma, tu senti questa insicurezza? Certo, perché tra l'altro io sono uno step prima ancora rispetto ai cittadini comunitari, cioè in questo momento preciso le leggi contro gli extracomunitari si fanno sempre più feroci, perché siamo in un frangente di incertezza e purtroppo le persone nella mia categoria, e ricordo che siamo 810.000 minori e 140.000 persone come me, quindi poco più che maggiorenni, ecco, questo milione di persone in questo momento sta venendo accostato agli sbarchi, all'immigrazione, quando in realtà dobbiamo parlare unicamente di diritti civili e della possibilità di avere un'identità ed una casa. Quindi tu hai fatto un distinguo molto importante: accostare, come si fa nella narrazione pubblica ultimamente, il problema dell'immigrazione, che ovviamente solleva e domande di natura umanitaria e richieste di soluzioni e richieste di investimenti economici, al problema invece di riconoscimento del diritto civile di chi in Italia è già e presumibilmente ci starà, perché se tu dovessi perdere anche questo status di residente italiano, dove andresti? Cioè, che legami hai tu col Salvador che hai lasciato 15 anni fa? Praticamente nessuno, perché poi tutta la mia famiglia è qui in Italia, persino mia nonna è qui in Italia, quindi la mia intera famiglia è in Italia, la mia intera vita, i miei amici, i miei affetti, tutta la mia vita si svolge intorno all'Italia. Quindi un giorno, quando io, paradossalmente, ipoteticamente, speriamo non succeda mai, mi venisse detto tu devi andare via, la domanda più grande è: dove? Ci spostiamo, attraversiamo un oceano, lo facciamo non per andare in Salvador, leggermente più a nord, molto più a nord, nel paese che ha la più alta reputazione al mondo, il Canada, seguito da Svizzera e Svezia. In Canada c'è per noi la professoressa Sansone. Buongiorno, benvenuta professoressa. Buongiorno, ciao Irene. Daniela Sansone, professoressa alla York University, è stata in passato anche giornalista di diversi canali multiculturali, televisivi e testate giornalistiche, per quello il suo interesse è particolarmente nel giornalismo, anche se adesso sta acquisendo un PhD e quindi la sua carriera si è diversificata rispetto all'origine. Studiando e ricercando, a un certo punto si è interrogata proprio su quanto il multiculturalismo canadese abbia contribuito, proprio la presenza di una fortissima percentuale di immigrazione a cui viene agevolata la vita anche con la cittadinanza, abbia contribuito alla creazione del benessere di questo paese. Che risposta si è data? Sì, diciamo che il Canada appunto punta sul multiculturalismo e quindi concede la cittadinanza canadese in maniera relativamente semplice e comunque piuttosto rapida. Naturalmente esiste qui lo Ius Soli dal 1977, e cioè chiunque nasca in territorio canadese è automaticamente canadese, acquisisce la cittadinanza al momento della nascita, però si acquisisce anche diciamo con la residenza permanente dopo 3 anni di residenza, quindi insomma è abbastanza rapida rispetto anche ai tempi che sono stati citati finora. E una cosa interessante che è stata menzionata è appunto questa sorta di paura del turismo di nascita, che viene chiamato birth tourism, che però sono stati fatti degli studi appunto per verificarne l'esistenza, e in realtà non esiste assolutamente, cioè non c'è nessuno che venga in Canada appositamente per partorire ed avere i figli cittadini canadesi. Una cosa... Beh, è molto importante sottolineare questo aspetto, perché la discussione in Italia è molto ideologica. Quando si parla e si parte da un terreno ideologico, tutto appare possibile. Quindi partire con un confronto e guardando, osservando realtà in cui alcune possibilità esistono e poi non vengono esperite, per esempio, non vengono praticate, può essere anche rassicurante sotto un certo punto di vista. Quindi, certo. Mi diceva? Sì, no, dicevo che c'è stato un episodio interessante, ma appunto viene citato proprio per dimostrare che non esistono casi di questo tipo, e che c'è stato anni fa una persona ugandese che viaggiava da Amsterdam a Boston e ha partorito in aereo, e in quel momento l'aereo si trovava nelle aree canadesi, diciamo così, nel cielo canadese, e siccome il territorio include sia la parte di cielo che la parte di acqua, sì, la bambina che è nata automaticamente ha avuto una cittadinanza canadese, ma questi naturalmente sono casi assolutamente rari. Talmente rari che sono passati agli annali della storia. Esatto, che vengono citati proprio perché, sì, ecco, questo caso è successo, ma non esiste gente che viene qua, insomma, che si possa comunque verificare che viene per ottenere cittadinanza. Chiaro. No. E nel suo caso lei ha anche un'esperienza personale, insomma, lei ha una figlia. Sì, infatti ho una figlia e mia figlia automaticamente appena nata era cittadina canadese. E penso che questo dato sia molto importante, al di là del fatto che, come è stato già detto, chiunque viva in un territorio ha anche il diritto di votare, quindi di eleggere i propri rappresentanti dopo un certo numero di anni, è anche importante per l'identità personale, per la creazione della propria identità. Cioè, quando io parlo con mia figlia in italiano a casa, mia figlia mi dice: mamma, tu sei italiana, ma io sono canadese. Cioè, lei si sente a tutti gli effetti cittadina canadese, quindi è importante che lei lo sia stata al momento della nascita, perché nella sua quando lei crescerà comunque sentirà questa appartenenza al territorio. Per cui penso che appunto sia una cosa fondamentale quella di se vivi in un determinato territorio dopo un certo numero di anni, o se nasci in un paese, di ottenere la cittadinanza. Mi viene data a chi comunque già vive, come abbiamo detto, chiaro, nel territorio. Rifletterei velocemente con lei e poi la lascio andare, so che è impegnata, sull'attrattività, perché quando parliamo delle classifiche di natura economica, finanziaria o sulla qualità della vita di questi paesi, la cui percentuale di immigrati poi si attesta al 52% della popolazione, cioè stiamo parlando di 52% della popolazione di Toronto, per esempio, nata fuori dal Canada, non fuori dalla città. E in che modo questo tipo di accoglienza anche poi riesce in qualche modo a riflettersi sull'attrazione che il paese esercita verso i migliori talenti, verso i migliori cervelli, verso le persone che possono poi offrire delle opportunità anche di natura molto prosaicamente economica? Certo, infatti è importante, nel senso che per esempio molte persone che vengono a vivere in Canada, ovviamente siccome ci sono delle leggi che controllano l'immigrazione, non stiamo parlando più necessariamente solo di persone che vengono a vivere perché sono vivono in povertà o per altre situazioni, che per carità ci sono sempre, però viene attirata tutta una serie di persone che vengono per investire in questo paese in termini economici, ma anche in termini appunto di studi, professionisti, eccetera, che sapendo che comunque i propri figli nel momento in cui nascono in Canada acquisiscono cittadinanza canadese, sono maggiormente motivati a spostarsi e a venire da qualsiasi parte. Quindi lo Ius Soli attira anche persone che comunque vengono per portare un qualcosa al paese, un contributo che a volte non è nemmeno chiaro, non è nemmeno, come dire, quantificabile in termini meramente economici, ma poi che si traduce in situazioni come l'indice di reputazione che abbiamo citato. Certo, Daniela, certo. Sanzone, professoressa alla York University di Toronto, grazie naturalmente. Grazie a te, Irene. E continueremo con i nostri ospiti tra pochissimo. Beppe, David, ciao, io sono in vacanza, ma dai, lunedì si inizia, vero? È finita la vacanza, dai. È finita, vero? Non è che dai, lunedì si inizia, cioè io sto malissimo, non so come fare lunedì si inizia, vero? Dai. Giuseppe Cruciani, David Parenzo, Radio 24, fra poco di nuovo in onda. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Io sono il numero zero, facce diffidenti quando passo lo straniero, in sclero, teso vero, resto scuro, picchio la mia testa contro il muro, sono io l'amico di nessuno e stai sicuro, resto fuori dalla moda e dallo stadio, fuori dai partiti e puoi giurarci, io non sono l'italiano meglio. E di nuovo spunti di vista, sempre Irene Zerbini al microfono, abbiamo tanti ospiti con noi perché questa legge è una di quelle questioni di cui si parlerà anche nei decenni a venire, da qui al futuro, quando tante inezie saranno state dimenticate, di sicuro le conseguenze del tema che stiamo affrontando oggi rimarranno per molto tempo. Le norme per acquisire la cittadinanza nei diversi paesi dell'Unione Europea, alcuni li abbiamo già citati, variano notevolmente da stato a stato. In Germania, per esempio, cosa succede? È cittadino tedesco chi è figlio di un cittadino straniero che ha il permesso di soggiorno da almeno 8 anni. In Gran Bretagna, ius soli per chi è nato sul territorio, quindi come in Canada esattamente. Sono francesi invece i figli nati in Francia da immigrati e i bambini nati in Francia da genitori stranieri, se al compimento della maggiore età, cioè quando arrivano ai 18 anni, sono lì, si trovano nel paese per almeno 5 anni. E poi insomma varie altre distinzioni sempre sul filo del rasoio per arrivare a questa legge che abbiamo detto col nostro professore giurista. Non può essere definita ius soli, anche se tale viene venduta sui giornali, perché è una sorta di ius soli temperato, è stato detto, ius culture. Professor Morozzo della Rocca, per essere accurati, qui si lega la possibilità di chiedere e ottenere la cittadinanza una sorta di adesione anche ai valori del paese, alla cultura, alla permanenza, all'istruzione. Come potremmo definirla? Ma io la definirei ius culture, considerando che noi stiamo parlando di bambini e di minori che stanno diventando adulti, che diventeranno adulti nel nostro paese. Allora io penso che di ius culture e di cultura più in generale ce ne vorrebbe di più, anche in materia di cittadinanza. Mi colpisce per esempio che l'Italia dia la cittadinanza a tante persone che l'Italia non l'hanno mai vista, che vivono in altri continenti. E questo pure, solo perché hanno qualche forse antenato di... Forse perché un bisnonno è andato a fare l'ingegnere ferroviario in Yemen, si è unito con una yemenita e il nipote può diventare italiano. Ora, beh, nel caso dei calciatori l'abbiamo visto molte volte con argentini, naturalizzati con grande... facilità, brasiliani se non sbaglio, insomma i grandi movimenti dell'ultima emigrazione italiana furono anche non solo verso il Belgio, le miniere, la Germania o il Canada, ma appunto Buenos Aires, dove si conta ci siano più passaporti italiani che a Roma addirittura. E quindi lei dice questo è il paradosso. Dico che la cittadinanza non è una borsa che si deve allargare o restringere, la cittadinanza deve essere un fatto culturale. Nascere in Italia da persone che ci vivono stabilmente, crescere in Italia e venire in Italia e avere qui la propria formazione, questa è la cultura della cittadinanza. E poi la cittadinanza non è un fatto di convenienza. E questo le volevo chiedere, professore, perché spesso al sistema giuridico della cittadinanza sono naturalmente collegate delle considerazioni anche di natura funzionale, diciamo così. Essere cittadini conviene, ti toglie una serie di problemi, questo non si può negare. Lei invece ci sta descrivendo una cittadinanza forse più ricca dal punto di vista della definizione. Certo, perché noi il problema del calcolo della cittadinanza ce lo poniamo da adulti e ce lo poniamo per gli adulti, dove ovviamente le regole sono diverse e devono essere diverse. Ma io credo che la cittadinanza è un'altra cosa. La cittadinanza, cioè, la svuotiamo di significato, lei dice, facendo così. Ma certo. Mi corregga se ho capito male. È questo il suo pensiero. La svuotiamo di significato perché non diamo il significato che invece oggettivamente ha il fatto di vivere insieme, di vivere insieme stabilmente, di avere come unico orizzonte quello comune. E questo è un problema per l'Italia, perché poi l'Italia, un paese, è forte della sua coesione sociale, è forte del senso di comunità. E noi così lo perdiamo il senso della comunità, perché in una classe persone che hanno bambini, ragazzi che hanno esattamente la stessa storia, come ci ricordava Xavier, noi così creiamo delle fratture. Quello Xavier, ti è successo? Sui banchi di scuola sentivi di essere diverso dai tuoi compagni per questa questione dei documenti? Assolutamente no, anche perché a scuola ci andiamo tutti, abbiamo pari accesso e le maestre o comunque i professori non fanno distinzioni, ed è anche questa la vera forza della legge, che per la prima volta si lega la cittadinanza alla frequenza della scuola, ed è proprio la scuola che ci insegna i valori civici e che comunque ci forma come cittadini. E cosa hai da dire a quei genitori che invece siano spaventati dal fatto che tutti questi stranieri acquisiscano la cittadinanza? Ti sto citando letteralmente quello che ho letto sui giornali. Certo, non è una novità, però bisogna anche ricordare che questi fantomatici stranieri sono proprio i ragazzini che loro invitano a mangiare la pasta col sugo, sono proprio i ragazzini che mangiano il pecorino così come loro, ma soprattutto sono gli amici dei propri figli. Sono persone che se i genitori chiedessero ai propri figli «ma lui è italiano?», i figli dicono «certamente, è italiano ed è uguale a me». Charlotte Silverstein dalla Danimarca, ti sei trovata a raccontare questa situazione italiana, a raccontare la tua personale situazione, perché anche se cittadina europea hai vissuto questo tipo di restrizioni, e ad analizzare una realtà molto diversa da quella che viene dal tuo paese, perché non abbiamo citato qual è la situazione invece dal punto di vista delle leggi in Danimarca, dove diventare danesi tanto facile non è. No, è molto difficile, diventa quasi ogni anno ancora più difficile. Non esiste neanche il discorso di fare una specie di ius cultura che dà dopo il ciclo scolastico il diritto di ricevere la cittadinanza. In Danimarca, anzi, i test per le lingue, il soggiorno che deve essere minimo di 9 anni con un permesso di soggiorno illimitato permanente, nessun criminalità, neanche la multa per il parcheggio, eccetera. Nemmeno la multa per il parcheggio? No, può essere, perché le regole sono anche non fisse, diciamo, è una valutazione. E questo però viene, entra in gioco, diciamo così, dopo 9 anni di residenza nel paese. E dopo 18 anni di residenza nel caso di un bambino nato da genitori stranieri in Danimarca. Quindi che 9 lo può anni... chiedere sopra dopo 18 anni, ma il fatto di aver vissuto tutta la vita in Danimarca non dà altre possibilità. È come la persona che è entrato in Danimarca 9 anni fa, non è che c'è un avvio agevolato per i bambini. Poi c'è un test anche di 40 domande molto difficile che devono essere risposte con 32 corretti. Io, impegnandomi oggi, ne ho fatto 36 giuste, però mi chiedo perché sei a rischio. Se, sono un po' a rischio, mi sto italianizzando, ma mi chiedo anche perché un nuovo cittadino danese deve sapere chi è il fisico danese che ha ricevuto il premio Nobel nel 1922, e questa era una delle domande che ho dovuto rispondere oggi. Posso dire che era Niels Bohr, e che l'ho sbagliato io questa domanda. Niels Bohr, lo stavo dicendo. Niels Bohr, tu lo sapevi. Certo, certo, da, comunque mi conferirà ci vuole la cittadinanza. Molto di più, no, Irene, adesso, per scherzi, avere la cittadinanza in Danimarca. È chiaro. Scherzi a parte, poi si può discutere, no, sulla questione di cosa inserire in questo questionario, perché a volte è molto utile. Invece in altri paesi c'è una sorta di richiesta di conoscenza delle istituzioni, per esempio a chi rivolgerti in caso di come funziona il sistema legale, quali sono i diritti, molto importante come tema da rispettare, i diritti civili, perché anche quello è un tema controverso. Quindi se l'elemento dell'adesione, dell'appartenenza in sé può essere il cuore pulsante della cittadinanza, come ci ha spiegato il giurista Morozzo Della Rocca, forse anche la conoscenza di alcuni elementi non è da escludere. Chiaro che non deve diventare un discrimine così di erudizione per... Ma direi quasi io, se vogliamo che i nuovi cittadini danesi in questo caso, sì, conoscono il sistema, allora diventa obbligatorio frequentare un corso di diritti civili, di conoscenza del sistema, del certo, Parlamento, eccetera. 10 ore, chi è interessata di diventare danese, chi non vorrebbe partecipare a questo? E tu lo somministreresti, visto la vis polemica che ho sentito nelle tue parole, anche ai danesi? Ma anche ai danesi, però, sono, come abbiamo detto con Xavier qui, se uno ha svolto l'obbligo scolastico, è nato in Italia, è stato in Italia durante tutto questo percorso scolastico, secondo me merita di avere, anche senza chiederlo, di avere la cittadinanza, perché deve essere un diritto, non qualcosa da chiedere. Se l'Italia porterà a termine questo percorso, quindi dal tuo punto di vista quello che accadrà in Italia sarà meglio di quello che accade nel tuo paese d'origine. Ma molto meglio, perché non ti ho neanche detto che abbiamo un partito che sostiene l'attuale governo centrodestra, che insiste che anche se la gente possono fare tutti questi test e hanno tutti i requisiti, loro insistono che solo 1000 persone possano ottenere la cittadinanza danese ogni anno. E torneremo naturalmente a affacciarci anche oltre confine. Ora andiamo a Torino, dove ci aspetta il professor Francesco Remotti. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Non è un giurista, non è un esperto di sistemi legislativi, ma è un esperto di identità. Ed è un antropologo un po' così controcorrente, se vogliamo, perché invece di osannarla questa identità la definisce un'ossessione. Ma lei, professor Remotti, quando nei suoi libri parla di questa ossessione identitaria, cos'è che intende esattamente? Perché sembra la cosa più importante del mondo oggi come oggi, la propria identità. Ecco, appunto. Ma io credo davvero che sia... che sia un'ossessione, e che sia un'ossessione che ci fa del male, ecco, che oltre che a fare del male ad altri fa del male a noi stessi. Cioè proprio direi che il caso che stiamo esaminando, e cioè le difficoltà che vengono poste all'approvazione di questa legge, fanno capire, diciamo così, come questa ossessione identitaria, ecco, crea dei disastri, insomma, secondo me. Voglio spiegarmi meglio. Dunque, l'identità, tanto per cominciare, come dire, è un atteggiamento, è una mentalità che si fonda su una dicotomia. Noi e gli altri, no? Quando parliamo di identità o intendiamo identità personale, io e gli altri, oppure intendiamo un'identità collettiva, noi. Poi bisogna vedere chi è, come è fatto questo noi, ma lasciamo stare, noi e gli altri. Ecco, partire di qui, rendersi conto che alla base del pensiero identitario, della mentalità identitaria, c'è questa dicotomia, e ci si rende anche conto che con questa dicotomia, come dire, si fanno dei tagli, cioè si tagliano le reti, si tagliano le somiglianze, si tagliano le convivenze, ecco. Si tagliano somiglianze e convivenze, questo è uno spunto interessante per riflettere, e lo faremo tra pochissimo, perché ci deve spiegare qual è allora l'alternativa all'identità. Prima però il traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Spunti di Vista, i mille aspetti dell'attualità. Potete seguirci sulla pagina Facebook di Spunti di Vista. Diamo alcune coordinate per chi avesse da commentare. Questo è un tema che naturalmente fa discutere. Potete seguire il podcast sul sito invece www.radio24.it e potete mandarci un'email a spuntidivista@radio24.it. Abbiamo detto, non è accurato il termine ius soli per parlare di quanto si dovrà discutere in Parlamento, cioè di questa riforma in materia di cittadinanza che in realtà tiene impegnati i nostri parlamentari da circa 13 anni senza che riusciamo a uscirne. E con i nostri ospiti abbiamo visto un po' cosa succede fuori, ma soprattutto cosa succede all'interno dei nostri confini, a ragazzi a tutti gli effetti italiani, come il nostro Xavier Palma oggi qui con noi, e che non riescono a regolarizzare la propria posizione, nonostante diversi cicli di studi compiuti in questo paese. Addirittura Xavier è all'università. Ma tu hai dovuto mai rinunciare a qualcosa per la mancanza del passaporto italiano? E come? Ho vinto una borsa di studi Erasmus, quindi dovevo andare in Svezia a studiare 6 mesi, e purtroppo, essendo ancora un cittadino extracomunitario, non potevo recarmi in Svezia per più di 3 mesi senza chiedere un permesso di soggiorno svedese. Chiedendo il permesso di soggiorno svedese, quello italiano era incompatibile. E dunque, ad un certo punto, un ragazzo qualsiasi di 23 anni, quindi un italiano senza cittadinanza qualsiasi, si trova costretto a scegliere se andare in Erasmus come tutti gli altri, oppure se rinunciare per il sogno di un giorno diventare italiano. Sei un caso unico, o militando tu in questa associazione che hai fondato, Italiani Senza Cittadinanza, conosci altre limitazioni che naturalmente comporta il non avere un'identità dal punto di vista del passaporto? Certo, prima di tutto, a parte gli Erasmus, bisogna dire che alcuni di noi, alcuni degli italiani senza cittadinanza, sono laureati in scienze politiche. Di conseguenza, lo sbocco principale di questa laurea è legato ai concorsi pubblici. E uno dei requisiti nei concorsi pubblici è quello di avere la cittadinanza italiana. Quindi quali sono le professioni, le mansioni a cui non potete ambire? Allora, per esempio, un bambino che vuole diventare poliziotto si vedrà a 18 anni questo sogno infranto. In realtà sono escluso sia dalle mie ambizioni, tra virgolette, con la laurea triennale, quindi l'insegnamento del cinese, ma anche con le relazioni internazionali, quindi il mondo diplomatico, mi viene precluso tutto quanto. Ci hai dato un assaggio, una sensazione anche di quegli aspetti pratici. Abbiamo detto, non sono i centrali per la cittadinanza, però esistono e complicano la vita, perché centrale dovrebbe essere, secondo alcuni, l'identità, e l'identità di molti si sente minacciata se la cittadinanza italiana venisse concessa con estrema facilità. Tornando all'identità, professor Remotti, lei ha detto tanti scempi si fanno in nome di questa parola, ne abbiamo aggiunti alcuni altri. Sì, appunto, io vorrei dire, proprio anche avendo ascoltato tutta quanta la trasmissione, i vari interventi, l'identità da una parte nasce, secondo me, da un impoverimento culturale spaventoso, e aggiunge impoverimento, crea impoverimento. No, proprio le cose che abbiamo sentito da Gavier, ma anche quello che diceva Morozzo della Rocca, cioè la perdita di questo vivere insieme, no? La perdita di forme di convivenza. Ecco, questo. Sì, ma professore, com'è possibile rinunciare se l'identità tanti danni fa, come lei ci sta spiegando? Qual è l'alternativa? Un individuo tiene molto alla sua identità, uno Stato tiene molto alla sua identità, non sono processi irreversibili. Ecco, ma io sono dell'idea che l'identità si può fare tranquillamente a meno. Ecco, si può fare tranquillamente a meno dell'ossessione identitaria soprattutto. Quello che conta, mi sembra di poter dire, che è il fatto che le persone hanno da convivere, da vivere insieme, ecco, più che non da rivendicare delle identità. Ecco, io chiedo, ecco, qual è la sua identità? Mi dica un po', qual è la sua identità? Oppure, se chiediamo, non so, più in generale, cosa vuol dire l'identità degli italiani? In che cosa consiste? Io non credo che noi facciamo coincidere la nostra eventuale supposta e tanto lodata identità con l'algoritmo che costituisce il nostro codice fiscale, non credo. Consiste in quello la nostra identità? La mia identità è RMT, FNC, eccetera, eccetera? Beh, un po' più ricca, immagino. Appunto, ma allora che cosa c'è? E allora lei è riuscito con un meccanismo proprio socratico a metterci tutti in crisi. Siamo qui in studio e siamo molto ammirati. Ringraziamo naturalmente il professor Remotti per questa provocazione che ci ha spinto anche a interrogarci su caratteristiche personali. D'altronde, il fenomeno di concentrarci su ciò che ci accomuna invece che su ciò che ci in qualche modo allontana viene anche dal mondo economico. Nella sua relazione annuale, Tito Boeri, presidente dell'INPS, ha detto recentemente che se le chiudessimo le frontiere agli arrivi dei migranti extracomunitari, il nostro sistema pensionistico addirittura si troverebbe in grosse difficoltà. E che simulazione è stata fatta dai tecnici dell'istituto? Da oggi al 2040, se in qualche modo eliminassimo quelli che sono i contributi versati dagli stranieri, che in molti casi tra l'altro non vengono nemmeno reclamati perché si spostano prima di arrivare all'età di maturazione della pensione, ebbene se togliessimo questi contributi perderemmo in totale 38 miliardi di euro, che poi dovremmo recuperare ovviamente con imposizioni fiscali più sostanziose. Nell'Italia che oggi si trova ancora una volta a discutere su diverse leggi, lavorano e hanno prodotto solo nel 2015 2,3 milioni di stranieri. Ebbene, hanno prodotto l'8,8% del valore aggiunto nazionale, dice Boeri, dice l'INPS, 127 miliardi di ricchezza. Queste sono cifre e ci portano ancora una volta a una riflessione che vorrei fare con il professor Morozzo Della Rocca prima di salutarci, e riguarda appunto la possibilità di accostamento di questa possibilità di legge di riconoscimento della cittadinanza invece agli sbarchi, alla clandestinità, a tante parole che evocano paura e terrore nell'opinione pubblica. Lei ha fatto una proposta precisa, abbastanza interessante per quel che riguarda anche arginare questo fenomeno. Può condividerla con noi? Sì, cambiamo decisamente registro. Il registro è quello delle persone che sbarcano in Italia, purtroppo è anche quello delle tante persone che muoiono in mare. Si calcola nel 2016 forse 5.000 morti in mare nel tratto del Mediterraneo per venire in Italia. Sono tutti accomunati dal fatto di essere persone nelle mani di trafficanti. Loro quindi la sua proposta, professore, in un minuto? La proposta secondo me è che l'Europa renda possibile a chi ha diritto alla protezione internazionale di chiedere un visto per venire in Europa e in questo modo anche distribuire i profughi là dove essi vogliono andare, che poi non è che vogliono andare in un posto perché la città è più bella, vogliono andare in un posto perché lì hanno una famiglia, l'occasione di un lavoro, una casa. Sarebbe anche una scelta razionale dal punto di vista economico-politico. Cioè non solo superare le disposizioni di Dublino, per cui un migrante non può spostarsi dal paese di prima accoglienza senza avere un nuovo permesso di soggiorno, e di questo si è già discusso. L'elemento nuovo che lei introduce è i consolati italiani all'estero, europei con delle quote annuali potrebbero mettere, per così dire, in fila le persone che vogliono ricollocarsi in Europa, e questo sarebbe una fila alternativa a quella di consegnarsi ai trafficanti di morte. Certo, non risolverebbe tutti i problemi, perché in alcuni paesi dove il governo non c'è, o situazioni come la Libia, penso alla Libia, penso all'Eritrea, sicuramente non ci sarebbe la possibilità di creare una fila alternativa. Ma è molto interessante questa possibilità di discussione. Oggi non è possibile, invece i consolati europei non svolgono questa funzione. Ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato alla nostra trasmissione. Comincio da Charlotte Silverstein, grazie naturalmente, e tanti auguri per il termine del processo di acquisizione della tua cittadinanza. Grazie a Paolo Morozzo Della Rocca, grazie a Daniela Sanzone che non è più in collegamento, e al professor Francesco Remotti. Un'ultima domanda per il nostro Xavier Palma. e riguarda naturalmente il tuo futuro. Che sentimento nutri verso l'Italia, visto tutte queste discussioni? Secondo te anche l'Italia arriverà non solo ad avere una legge, ma ad avere una legge di cui andare fieri, o saremo sempre costretti a guardare cosa fanno fuori e a invidiare quello che fanno altri? Sarebbe molto bello che questa legge venisse approvata, perché per la prima volta saremmo all'avanguardia. Come italiano senza cittadinanza, l'Italia rimane e rimarrà sempre la mia casa. Grazie mille Xavier, e grazie da Irene Zerbini a tutti quelli che hanno contribuito a questa trasmissione, ai producer Giulia Lauricella, Miriam Lucchetti, Elisa Pancaldi, che insieme a me l'hanno pensata, e ad Andrea Roccabella in regia. Speriamo di ritrovarci entro breve per discutere di una legge che sarà stata fatta. Con questo augurio ci congediamo per ora da Irene Zerbini, l'augurio di un'ottima giornata.